vero che Mario Ballotelli a gennaio arriva alla Juve? Perché sinceramente a me, da juventino, anche se me lo regalavano, non me lo prendevo. Da questo momento, lo dico quasi quasi credendoci, il Palermo vincerà lo scudetto. Volevo sollevare un attimo il livello del colloquio dopo aver sentito Cassano, perché veramente non si può sentire. Tutti convocati. Di Giovanni Capuano. Non è certo un rigore sbagliato da De Rossi o Di Natale che mi fa cambiare l'opinione o è il convincimento di quello che possono essere i meriti e le qualità di questi giocatori, perché se ragionassi così sarei uno stupido. Quello che loro hanno fatto rimane né più né meno, indipendentemente dal fatto che hanno sbagliato un rigore. Terremo a fare bella figura e a non sfigurare, perché poi alla fine dopo un bellissimo percorso per diverse situazioni negative, la finale dell'Europeo è stata un qualcosa che secondo me non è risultato reale, ecco, per quello che siamo noi e per quello che possiamo esprimere. Per cui sicuramente la cosa che ci preme di più è cercare di far vedere che la differenza non è così grande come quella che si è vista in finale, pur consapevoli del fatto che loro sono il punto di riferimento in questo momento di tutte le squadre, perché sono una grande corazzata. Cominciamo da qui, dalla notte del 1° luglio di un anno fa a Kiev, Spagna-Italia 4-0, ma anche dalla delusione di Vienna 22 giugno 2008, gli errori di De Rossi e Di Natale che ci portarono fuori dall'Europeo e diedero inizio alla leggenda degli invincibili. Sono passati, pensate, 5 anni e 5 giorni esatti. È ora di riscrivere una nuova storia, è ora di ricominciare da questa semifinale di Confederations, questa sera alle 21 a Fortaleza. Siamo sfavoriti e però abbiamo la certezza di non partire battuti. I nostri contatti per intervenire in diretta 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms, chiocciola tutti convocati per chi scrive via Twitter. Oggi è una giornata ricchissima di notizie, voci, indiscrezioni, ci sono le parole di Tevez che poi vi faremo sentire, c'è il punto sul mercato, ci sono le scuse di Fabrizio Miccoli in lacrime e poi c'è anche il tennis che sta riservando grandissime sorprese e alle 14.45 andremo a Wimbledon il giorno dopo la caduta degli dèi. Intanto saluto Giancarlo Marocchi, buon pomeriggio Giancarlo. Buon pomeriggio a tutti. Opinionista Sky che questa sera in studio commenterà Italia-Spagna. Ricominciamo da dove, Giancarlo? Abbiamo davvero la speranza di poter scrivere una storia diversa o è soltanto un'illusione e loro restano più forti? Si comincia al primo minuto con quell'idea lì di riscriverla la storia, poi delle volte, sai, partendo sfavoriti contro qualsiasi pronostico, non è male perché sei più sereno. Un giocatore che va in campo, che sa di poter perdere contro un avversario più forte, delle volte trova dell'energia, delle ansie minori, quindi può anche succedere che in finale ci vada l'Italia. Sì, questa sera abbiamo anche il vantaggio che si tratta di una partita importante, di un traguardo importante, quello della finale della Confederation, però c'è anche la possibilità di cadere senza farsi troppo male eventualmente. Io credo che dal punto di vista psicologico questo per noi sia importante. Sì, è proprio quello che ho detto, quindi è un vantaggio che ci teniamo. E cose che invece non hanno i super favoriti, con magari qualche problema extra calcistico, insomma, di festini, eccetera. Tutto fa brodo, detto così alla buona, ma tutte sono componenti che alla fine vanno in campo, ecco, perché a differenza di altri sport, in questo splendido gioco non sempre, meno spesso vince il favorito, però è chiaro che le probabilità maggiori sono per la Spagna. Che Italia ti aspetti questa sera? Un'Italia spensierata come nel girone oppure un po' più solida? Io parto da Brasile-Uruguay di ieri sera, che non è stata una bella partita. A me è parsa più una partita da mondiale rispetto a quelle che l'hanno preceduta nel girone, cioè più bloccata, più nervosa, più cattiva. Credo che anche Italia-Spagna possa essere diversa dalle partite che l'hanno preceduta. Allora, sono due partite diverse. Intanto io anche nei commenti delle partite precedenti, per quello che riguardava il Brasile, ho detto il Brasile ha grandissimi giocatori, ma fa molta confusione come squadra, ovvero grandi individualità che cercano di stare insieme, però non so, ci sono due centrocampisti centrali che sono più bravi a conquistare palla e magari anche a fare qualche gol. Se gli si chiede di costruire gioco, di rendere fluida la manovra, non ce la fanno assolutamente, pur essendo i centrocampisti brasiliani. E, non so, i difensori esterni vanno sempre all'attacco, quindi sono molto anomali, e tutte e due. Quindi è per quello che succede che il Brasile possa far fatica con l'Uruguay, che insomma è tutt'altro, a parte l'attacco, uno squadrone. Allora, quindi venendo all'Italia, una volta che tutti sappiamo, i giocatori per primi insieme a Prandelli, che la Spagna è più forte, ti puoi mettere dietro serenamente. Ti metti dietro serenamente, gli lasci il possesso di palla senza fartene un cruccio o senza avvilirti troppo se loro dopo un po' toccano il 70% di percentuale di possesso palla. Pronti però a vedere se fanno qualche errore. D'altronde già la Nigeria nel primo tempo un paio di gol li poteva fare. Sì, anche se io non credo tanto nella teoria di Prandelli espressa nelle ore di vigilia di questa partita, e cioè che il calcio del futuro è lasciare agli avversari almeno 4-5 palle gol pur di crearne 6 o 7. Mi sembra un po' una visione zemaniana, meglio lasciare la palla agli spagnoli, chiudersi sapendo che di occasioni ne avremo 2, magari 3, se va bene, quelle vanno sfruttate. Sì, lo puoi fare con delle squadre normali, qui stiamo parlando di una squadra anomala, quindi non puoi pensare di avere così tante occasioni. È vero il concetto che ha espresso Prandelli, ma assolutamente non con la Spagna, ma con altre squadre ci sta, ne guadagna anche il gioco. Invece la Spagna tanto tiene la palla, poi secondo me c'è uno svantaggio che abbiamo proprio nella fluidità del gioco spagnolo. Noi d'accordo abbiamo straperso e loro avevano in campo 2 playmaker, con uno solo giocano meglio, ovvero non c'è Xavi Alonso perché si è infortunato, non ha partecipato a questa manifestazione, loro solo con Busquets e tutti gli altri a muoversi un po' di più hanno un gioco decisamente più fluido, quindi forse e grazie a questa assenza hanno deciso anche di mettere un centravanti. È ancora più logica come squadra, fermo restando tutte le doti positive che ha la Spagna. Sì, questo può essere un paradosso, però è così. Oggi sui giornali italiani centravanti indicato è Soldado. Un'oretta fa Marca ha invece pubblicato l'indiscrezione secondo cui nel tridente insieme a Pedro e Fabregas potrebbe giocare El Niño Torres. Tutti convocati. Non c'è un modulo perfetto, non c'è un modo con cui si possa affrontare la Spagna e dire con questo modulo vinco. Noi dobbiamo metterci in testa, domani sarà una partita difficile, che possesso palla per la maggior parte della partita l'avranno in mano loro, però noi dobbiamo avere la bravura, la capacità di leggere la situazione e avere quel coraggio che abbiamo avuto nel secondo tempo con il Brasile. Non c'è un modulo perfetto per affrontare la Spagna, dice Prandelli. Giancarlo Marocchi, noi questa sera abbiamo scelto la difesa a 3, un po' per la suggestione di quella prima partita dell'Europeo di un anno fa, pareggiata 1-1, e che è stata dal punto di vista tattico forse la partita migliore dell'Italia nell'avventura in Polonia e Ucraina, e un po' credo anche per restituire alla difesa certezze che soltanto il lavoro di 2 stagioni, questo è il blocco juventino, quello che ha preso 40 gol in 2 campionati, possono restituire. Sei d'accordo? Sì, non è logico contro un attacco a una punta e attaccanti esterni, però è molto logico per dare certezze ai 3 giocatori della Juve che hanno fatto benissimo. Quindi Prandelli li aiuta dandogli così uno schema loro congeniale, quindi li aiuta anche singolarmente, al di là della loro condizione fisica, dovesse giocare Giaccherini a sinistra, faremmo impazzire lui, ma tanto lui l'abbiamo già esaltato tanto in queste partite, ha già fatto tanto bene in una posizione di campo a lui ormai più congeniale, ovvero centrocampista e centrocampista avanzato. E quindi tra l'altro Giaccherini ha 100 polmoni, è in un momento in cui attraversa un'ottima condizione fisica e quindi potrà serenamente cercare di reggere l'urto. Ti leggo alcuni dei messaggi arrivati al 349-238-6666. Franz da Trieste: se non li pressiamo fin dall'inizio rischiamo di prenderne 5, perché non tutti sono d'accordo sul fatto che si debba lasciare palla e chiudersi dietro per poi cercare le ripartenze. Non stiamo parlando del catenaccio, stiamo parlando di un'impostazione che abbiamo visto ad esempio in questi anni anche contro il Barcellona da parte di chi come il Chelsea, come l'Inter di Mourinho, poi il Barcellona l'hanno battuto. C'è anche chi dice: abbiamo preso 3 gol col Giappone, 4 con il Brasile, questa sera rischiamo di fare la fine di Tahiti. Giancarlo, io aggiungo tra le differenze rispetto a un anno fa anche il fatto che a quella finale arrivammo con 24 ore in meno di riposo dopo un torneo massacrante, e questo pesa. E poi con alcuni giocatori acciaccati perdemmo Thiago Motta dopo un'ora di gioco. Sono tutte situazioni che ci auguriamo irripetibili questa sera. Guarda, per venire all'atteggiamento mi sta bene anche attaccarli alti, l'importante chiaramente non lo puoi fare per tutta la partita, che ci sia quasi un segnale convenzionale che porti la nostra squadra a giocare in 40 metri, che poi siano i 40 metri a ridosso della porta della Spagna per alcuni momenti della partita, per molti altri momenti a ridosso della porta di Buffon. Se noi pensiamo di giocare per i 100 metri del campo, quindi a tutto campo con la Spagna, perdiamo matematicamente. Ecco, questo è il concetto. È chiaro che non si deve stare per forza con i piedi dentro la nostra area di rigore, come è successo per momenti con il Giappone, ma lì non era una nostra scelta, ci hanno messo loro. Però tutti in blocco per uno spazio di campo ristretto. Per chiudere, Giancarlo, non c'è Balotelli. Ha detto Prandelli: questo ci fa perdere qualcosa dal punto di vista delle individualità, ma ci consente di aumentare la qualità del nostro gioco. La considerazione è che secondo me Gilardino non sarà tra un anno l'alternativa di Balotelli al Mondiale, e questa esperienza, anche l'esperienza di questo infortunio, insegnerà molto a Prandelli. Nei prossimi mesi dovrà stare attento a costruirsi nella rosa un'alternativa valida a Balotelli, che resta comunque il punto fermo del nostro attacco. Ma quello è certo, è chiaro che fosse stato un mondiale, Osvaldo immagino sarebbe stato perdonato e quindi ce lo troveremo in campo questa sera. Gilardino potrà fare molto bene perché lui potrebbe anche sfiorare un pallone solo nell'arco dei 90 minuti e segnare, però è chiaro che comunque sarà il campionato prossimo a far sì che Prandelli ne scelga i 23. Che gli danno garanzie, ma che sono anche in forma. Non c'è dubbio. Grazie Giancarlo Marocchi. Grazie per avermi convocato, per avermi dato anche notizie sul traffico. Sto raggiungendo gli studi di Sky, dove questa sera in studio per Italia-Spagna, studio a partire dalle 20, poi diretta dalle 21 da Fortaleza, semifinale di Confederation. Grazie a Giancarlo Marocchi. 800240024 per le vostre telefonate in diretta. Francesco dalla provincia di Avellino, buon pomeriggio Francesco. Salve, buon pomeriggio a lei. Niente, io credevo riguardo alla semifinale di questa sera, la Spagna con noi ha iniziato il ciclo terribile e con noi lo finirà. Non so se sarà questo questa sera, ma ho questa forte impressione. Tra l'altro io ho dei dubbi riguardo alle scelte di attacco di Prandelli, che stimo sia come persona che come allenatore. Lasciare a casa l'ultimo capocannoniere degli ultimi 3-4 anni, ossia di Natale, mi sembra un azzardo, anche perché portare Gilardino non significa magari proiettarsi al Brasile prima dell'anno prossimo. Quindi credo che vadano viste un po' queste scelte. Io credo che Di Natale potrà venire buono eventualmente se nella prossima stagione ripeterà i numeri delle ultime 2 o 3 annate, altrimenti è un giocatore che ha chiuso la sua esperienza azzurra con l'Europeo del 2012, non è l'unico, penso anche ad esempio a Cassano, però ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, le condizioni difficili climatiche e di condizioni fisiche che ha affrontato e ha trovato e ha scoperto l'Italia in questa Confederations a un anno del Mondiale, credo che cambieranno anche alcuni pensieri del CT sulla possibilità di convocare giocatori che atleticamente non sono freschissimi. Secondo me il discorso vale anche per Francesco Totti. Grazie comunque. Antonio dalla provincia di Treviso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Buongiorno, sono Antonio da Motta di Livenza. Io volevo soffermarmi un attimino su una partita che ho visto dell'ultima qua dell'Italia contro il Giappone, o non mi ricordo più, un'altra squadra, del labiale proprio di Prandelli, che proprio non mi ricordo più in quale fatto si vedeva proprio che la bestemmia è venuta fuori, non si sentiva. Sì, non so se voi avete osservato. Era contro il Giappone, se ne è parlato. Prandelli ha anche risposto e ha garantito e ha assicurato di non aver bestemmiato, che non è nel suo costume. Sinceramente Treviso, Antonio, scusi, possiamo anche passare oltre, nel senso che credo che se abbia bestemmiato o meno siano affari di Prandelli. Se lo ha fatto è stato maleducato e faccia conti con la sua educazione. Se non lo ha fatto, meglio, ma l'interesse è pari a zero. Pietro da Milano, buon pomeriggio. Pronto? Prego. Buongiorno. Prima di tutto, chiaramente, bella trasmissione, se sia Godani. Io telefono per una situazione completamente diversa da quella che è la nazionale. Dica. Purtroppo sono un tifoso interista e vedere che la Juventus compra un giocatore e lo paga, discutendo col Milan comunque, come noi abbiamo pagato mi sembra una cosa da matti, insomma, da matti. E quindi chiedo, come mai l'organizzazione dell'Inter per comprare, vendere, fattere sia così? Io ho una mia teoria e ci tengo a dirla, perché dica, però ecco, stringendo. Branca è l'amante di Moratti, porca miseria, perché se no lo mandi via uno così. Branca è un dirigente che comunque l'Inter l'ha fatta anche vincere insieme a Moratti, ai budget che gli metteva a disposizione. Branca è un uomo che ha sbagliato tante volte le scelte di mercato, però le ha anche azzeccate. Branca è anche un dirigente che in questo momento fa i conti con una società, lo ha detto ieri sera Moratti, che nell'arco di due anni ha abbattuto di 80 milioni le spese, 80 milioni in due anni. Qualunque dirigente sarebbe in difficoltà a fare mercato senza soldi. Le faccio sentire la voce di Galliani oggi su Tevez a proposito di dirigenti che senza il mercato, senza soldi, fanno fatica a fare il mercato. Galliani oggi. Non le ha tolto il sorriso questo Tevez alla Juventus? Ma no, non mi ha tolto il sorriso, no, anche perché noi lo sapete benissimo, mi spiace di essere ripetitivo, noi abbiamo 5 attaccanti che qualitativamente e numericamente sono più che sufficienti, quindi è chiaro che non essendo partito nessuno non potevamo andare avanti nella trattativa, l'ho detto da tanti giorni, è normale insomma. Ecco, secondo voi davvero Galliani non aveva interesse a Tevez, davvero era soltanto un'azione di disturbo quella su Tevez? No, al Milan Tevez piaceva e come, e però non essendo riuscito a cedere né Robinho né Boateng né tantomeno di inserire El Shaarawy in una trattativa con il Manchester City, il Milan si è dovuto fermare. La Juventus è stata brava e ha approfittato di un momento in cui non aveva avversari, da qui 12 milioni che pagherà per Tevez, che sono certamente un prezzo basso rispetto al valore del giocatore. Poi dovrà essere tutto confermato dal campo. A proposito di voci di mercato, oggi ha parlato De Laurentiis, perché ieri sera, dopo l'eliminazione della Confederation contro il Brasile, Cavani aveva detto: voglio parlare con il presidente perché vengono dette e scritte molte falsità sul mio conto, io amo Napoli e rispetto i suoi tifosi. Sentite la risposta oggi di De Laurentiis. E adesso lui avrà un periodo di vacanze e poi penserà al suo futuro, me lo farà sapere, ci siederemo intorno a un tavolo, se ci sarà, ripeto, questa offerta non ci saranno problemi, se invece questa offerta non ci dovesse essere Cavani resterà al Napoli e giocherà nel Napoli, noi saremo felicissimi e Benitez sarà felicissimo. Io l'unico incontro che ho avuto è stato con il Manchester City e non c'erano, diciamo, i presupposti economici per poter fare l'operazione. Questo De Laurentiis oggi su Cavani, l'impressione è che è un tormentone che ci porteremo avanti molto, anche se la data limite è quella del 10 agosto. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta per parlare di Italia-Spagna di questa sera, del mercato, della presentazione di Tevez, di cui parleremo dopo le notizie di borsa con Massimiliano Nerozzi. Vi faremo anche sentire le parole di Fabrizio Miccoli, che oggi, piangendo in conferenza stampa, si è scusato per gli insulti alla memoria di Falcone. Adesso le notizie di borsa. La prima cosa è che il mio italiano non è perfetto ancora, devo imparare il mio italiano e il napoletano, perché adesso non mi chiamo Rafa, mi chiamo Rafè, devo impararlo se qualcuno mi chiama nella strada. Tutti convocati. Sono qua per quello che è uscito, a prendermi le mie responsabilità, a chiedere scusa a tutta la città di Palermo, a chiedere scusa alla mia famiglia che mi ha fatto crescere in un contesto di valori, di rispetto. Questa è la voce di Fabrizio Miccoli. Questa mattina le sue scuse per le parole che hanno infangato la memoria del giudice Falcone, parole che fanno parte di un faldone d'inchiesta in cui per lui ci sono anche ipotesi di reato pesanti, importanti. Però era quella telefonata, quell'intercettazione con il figlio del boss, quella definizione quel fango di Falcone che ha colpito molto l'immaginario. Oggi Miccoli ha anche pianto chiedendo scusa, ha raccontato di essersi messo a disposizione della sorella di Falcone per fare delle iniziative, sorella di Falcone che lo ha smentito, e quindi anche questo passaggio sarà da chiarire. Sentiamo però un altro passaggio della conferenza stampa di Miccoli. Ognuno deve stare bene con se stesso. E io oggi mi sento di dire che me lo sono, e lo sarò ancora di più quando dimostrerò con i fatti che io non sono un mafioso e sono contro la mafia, e che un domani veramente, ripeto, mi si è data la possibilità di dimostrarlo con i fatti. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate delle scuse di Miccoli. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate. Apriamo però la pagina dedicata alla presentazione di Tevez, Juventus Stadium, questa mattina 11:30 in punto, giù di lì. Secondo te la responsabilità della camicetta 10, la tomo come tal, credo che tuvieron grandes ídolos con esa camiseta. E questa è la voce di Tevez mentre spiega che indossare la numero 10, che nella Juventus hanno indossato grandissimi campioni, è sì una responsabilità ma anche un onore, ma soprattutto per lui è una responsabilità che non pesa, perché in fondo al Boca Juniors ha indossato anche la 10 che è stata di Diego Maradona. Buon pomeriggio a Massimiliano Nerozzi, collega della stampa che sta seguendo, ha seguito la giornata, la prima giornata juventina di Tevez. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a voi. Mi sembra la conferma oggi nelle prime parole che il ragazzo ha carattere, eh? Non soltanto per questo passaggio, poi ne parliamo. Ma guarda, non so se sia stata suggerita la battuta, ma giurano tutti di no, e questo è il primo grande assist o gol alla Juve per Amaio numero 10, che da queste parti, da quando è andato via Alex Del Piero, era un bel peso, insomma. Dopodiché ci ha infilato anche un'altra stoccata al Milan, e ovviamente già unito per la Juve. Sì, poi ha parlato anche di Gli Oriente, e sinceramente non mi è sembrato entusiasta di giocare con quello che sarà il prossimo compagno di reparto. Solitamente quando ti chiedono se il prossimo compagno è il compagno ideale si usano delle frasi di circostanza. Mi ha fatto sorridere, Tevez ha risposto: boh, deciderà Conte, ne parleremo e ne discuteremo. Anche qui grande personalità, che è un vantaggio per la Juventus, a patto che poi non diventi un problema. Il carattere di Tevez lo conosciamo tutti, lo conosce molto bene soprattutto Roberto Mancini. Max. Sì, guarda, sì, Tevez per carità ha avuto un caratteraccio in passato, non solo con Mancini ma anche con Ferguson, però non è un lavativo. Lo stesso Mancini mi sembra che l'altro giorno l'abbia riconosciuto, che quando Tevez è stato riarruolato sostanzialmente la tua grossa mano a vincere la Premier, e non essere un lavativo penso che lo faccia partire in vantaggio con Antonio Conte, per il quale il lavoro è sacro, Tevez è uno che si sbatte ovunque, Mourinho lo voleva il primo anno a Real Madrid, e insomma penso che nell'acquisto di Tevez sia stata fondamentale anche una cena che fu fatta in segreto a maggio, dove proprio si incontrarono Conte e Tevez. Proviamo a mettere i titoli di questa prima conferenza stampa italiana. Uno è sulla 10 e lo abbiamo detto. Poi Max, direi nulla di particolare sul sogno di vincere la Champions e l'obbligo di vincere il campionato. In fondo a Torino questo concetto l'hanno ben chiaro. Sì, no, l'altro, come ti accennavo prima, io metterei Milan, perché c'era rivalità già pazzesca, e lui a domanda precisa, anche qui abbastanza serafico, ha detto: veramente ho sentito Galliani 2 o 3 volte in vita mia, non lo sento dall'anno scorso, non so perché abbia detto certe cose. Insomma, sai, detto con la maglia numero 10 bianconera addosso, tu capisci che faccia un certo effetto ai tifosi. Sì, non esce benissimo Galliani da questa vicenda. Secondo me non tanto per non essere riuscito a portare Tevez a Milanello, in fondo non è colpa sua, le linee guida, il budget lo fa la proprietà, sono chiari da questo punto di vista, è anche un discorso condivisibile secondo me. In un'epoca di crisi Berlusconi non ha soltanto il Milan, ha delle aziende che in questo momento sono in difficoltà, non esce benissimo però perché la sua azione, che è stata un'azione di disturbo, non gli ha fatto fare una bella figura, e credo che quello che ha detto oggi Tevez in parte lo abbia sottolineato con l'evidenziatore. Sì, no, ma sai, poi non so se fosse appunto disturbo o meno quello del mio. Il problema è che viviamo nella società dell'informazione, ciò che appare spesso è più importante di ciò che effettivamente è. Insomma, davanti a tutti, diciamo, anche a Marotta rimase quel sms sventolato da Galliani dicendo: Carlitos non mi tradisce, rischia di diventare un tormentone come lo fu. A suo favore invece gol di Mutari. Oggi Marotta ha parlato di un grande club europeo che si è inserito negli ultimi minuti della trattativa, credo sia il Real Madrid. Guarda, è sicuramente Real Madrid, perché Kia Yobarchan, con il quale abbiamo parlato ieri e oggi, è buonissimo amico di Carlo Ancelotti, e la sera in cui la Juve torna da Londra, Kia va a cena con Ancelotti e lui racconta, beneficio di inventario, che Ancelotti, una delle prime richieste che fa al Real, sarebbe stato per lui. Sì, perché Tevez arriva a un prezzo che io ho definito non di saldo, ma certamente un prezzo interessante. È vero che era praticamente in scadenza di contratto, però la bravura di Marotta, la bravura della Juventus è stata salire a Londra forse nell'ultimo momento utile, in cui non c'era una vera concorrenza. Probabilmente da oggi sarebbe stato più complesso. Ma guarda, Marotta, facendo una battuta, non so quanto battuta, stamattina diceva che fosse salita la Juve un giorno dopo probabilmente sarebbe stata tagliata fuori, quindi ci vuole anche fortuna in queste cose. Poi a scadenza di contratto era, non vorrei far paragoni irriverenti, però diciamo che si può associare alla categoria di Van Persie Tevez, e Van Persie scadenza di contratto l'anno scorso andò a United per 30 milioni di euro. Sì, qui la differenza c'è, che la Juventus in questa fase di mercato è riuscita a trattarlo quasi da sola. Poi Tevez racconta che la sua volontà era vestire il bianconero, che lo aveva deciso da molto tempo. Io su queste cose, Max, però correggimi se sbaglio, sono un po' più distaccato. Probabilmente se fosse inserito il Real Madrid o qualcun altro, Tevez sarebbe andato legittimamente anche a vedere quell'offerta, e sappiamo bene, abbiamo anche l'esperienza di Higuain, che le italiane fanno fatica ad essere competitive. Proprio per questo io credo che arrivare a Tevez in queste condizioni anche economiche dal punto di vista di Marotta e di Paratici rappresenti una sorta di esame di laurea, perché in tanti li aspettavano al varco. Per carità, sulle dichiarazioni d'amore sottoscrivo quel che hai detto tu, e anzi è spesso una questione di soldi, come è legittimo per tutti i lavori. L'unica cosa che posso dirti su Real Madrid o sulla Juventus è che in questo momento, certo, i tempi sono di Marotta e Paratici, se viene alla Juve adesso lui è oggettivamente il fenomeno, cioè il numero 10, il giocatore più pagato, quello, cioè è una star. Se vai a Real Madrid rischi di essere una star in mezzo a altri 10, e insomma noi ricordiamo che ci sono più di un giocatore che per questo si è bruciato. Poi chiaro, se Real Madrid fosse andato pesantemente offrendo il doppio, probabilmente non ci sarebbe stata partita. Però non so, nella psicologia di un giocatore quanto conta oggi la presentazione allo stadio, la maglia numero 10, insomma, sicuramente Tevez è Tevez nella Juve, nel Real Madrid sarebbe stato uno dei tanti, secondo me. Sì, conta anche il grandissimo entusiasmo che ha suscitato il suo arrivo. Per chiudere, notizia di pochi minuti fa, il Consiglio di Lega ha deciso, la Supercoppa italiana si gioca a Roma il 18 agosto e questo più o meno si sapeva. La notizia però è che la Lega ha garantito alla Lazio tutti i soldi che avrebbe preso in caso di trasferta a Pechino e soltanto il rimanente andrà alla Juventus, che ha annunciato farà ricorso. Agnelli viene descritto come furioso. Sconfitta politica da ogni punto di vista questa per la Juventus. Sai, la questione è abbastanza complicata, nel senso che l'anno scorso la Juve andò a Pechino facendo saltare il tour americano. Quest'anno aveva preso impegni tali che non poteva andare negli Stati Uniti. Sai, la Juve dice che l'ha detto alla Lega già mesi fa con un documento ufficiale che in effetti esiste, e dopodiché pare che Lotito abbia cambiato anche lui diverse posizioni. Direi che è molto difficile tagliare, vedere dov'è la verità, insomma. Direi che aveva ragione Manzoni. Sì, e soprattutto direi che ne sentiremo parlare ancora, non è finita certamente qui. Grazie a Massimiliano Nerozzi. A voi, buon pomeriggio. Tutti convocati. 800 24 00 24. Antonio da Pisa, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Buonasera a tutti. Dica. Ti volevo intervenire sulla conferenza stampa di Miccoli che ho appena sentito, e che onestamente, se per quanto possa essere possibile, mi risulta ancora più indigesta della frase stessa che ha detto, perché sono quelle situazioni in cui si nega l'evidenza, non si sa cosa dire, si cerca di salvare il salvabile, rischiando di offendere ancora più di quello che si è già fatto. Lui chiede scusa ai palermitani, alla famiglia, dovrebbe chiedere scusa a tutta l'Italia, perché Falcone è un esempio che noi italiani portiamo con orgoglio in una lotta veramente dura e sanguinosa come quella alla mafia. Lui è stato intercettato in una frase vergognosa con un personaggio dubbio. Io fossi in lui, come minimo non aprirei più bocca fino a che non si è chiarita la vicenda. Sì, io sottoscrivo, Antonio. Io credo che Miccoli abbia detto quello che ha voluto dire, e adesso l'importante è che l'inchiesta prosegua. Se dovrà esserci, che ci sia un processo, che lui lì vada a dare le spiegazioni non tanto sulla frase che riguarda Falcone, ma anche su tutto il resto, che dal punto di vista penale ha anche una rilevanza maggiore. Aggiungo soltanto però che mi dissocio completamente dal coro di chi per Miccoli chiede la radiazione, la fine della carriera sportiva o una qualunque punizione sportiva, perché fatico a trovare nei regolamenti sportivi una qualunque appiglio che esca dall'ambito del calcio, del campo, di quelli che possono essere i reati sportivi. A questa stregua dovremmo applicare lo stesso metro di giudizio anche per qualche presidente, senza fare nomi, che ha rimediato condanne che non c'entrano nulla con il mondo del pallone. Mi è sembrato un'iniziativa assolutamente demagogica quella della FIGC di aprire un'inchiesta sull'intercettazione di Miccoli. Non serve davvero a nulla. Francesco dalla provincia di Lucca, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Buonasera a tutti, vi ringrazio di avermi richiamato. Dica. Io mi associo non solo dalla provincia di Lucca ma dalla provincia di Siena, mi associo ad Antonio, collega toscano, diciamo, in questa esternazione, e condivido in tutto e per tutto quello che ha detto. Io appena sentita la conferenza qui alla radio mi aspettavo le scuse a Falcone. Le scuse a Falcone non ci sono state per me una cosa veramente grossa. Poi giustamente, come ha detto lei, assolutamente la federazione non c'entra assolutamente niente. Io da toscano verace inviterei tutti gli sportivi che vanno allo stadio a fischiare Miccoli, perché è una persona che deve giocare a pallone, sa giocare a pallone, ma poi non, certe cose lui doveva chiedere scusa a tutti, non solo alla famiglia, non solo a Palermitani. Come ha detto Antonio, doveva chiedere scusa a tutti gli italiani, perché Falcone è un simbolo di un personaggio che ha lottato contro il male più grosso che ha questo paese. Sì, è un simbolo bello dell'Italia, Miccoli ha sbagliato, poi ripeto, ne risponda davanti ai magistrati e chiudiamola lì, almeno dal punto di vista sportivo. Grazie a Francesco. Andiamo a Wimbledon il giorno dopo la caduta degli dèi, non ci resta che il nostro Fognini. Out. No. Non è vero, ma non è vero, ha preso il gesso Pascal, ma come fai a dire, tu come mi dai warning? Come fai a darmi warning, per favore? Come fai? Dai, com'era? Franti, dai. Ti ha toccato il coso, il touch the white one. Sì, touch the white one, è così, non te ne... Come cazzo fai, Madonna, oh Madonna. Leggendaria la protesta di Fognini a Wimbledon. Vincenzo Martucci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Beh, c'era McEnroe famoso, per anche lui urlava perché diceva Chuck, gesso. Quindi siamo allo stesso livello. Peccato che poi McEnroe le partite le vinceva e Fognini le perde. Invece oggi l'ha vinta, per quel poco che l'ha giocata, il nostro Andreas Seppi, che ha vinto il primo set contro gli Odra. Poi gli Odra si è ritirato, ieri erano stati 7 i ritiri. Poi ne parliamo, però partiamo dalla caduta degli dèi. Ieri Federer e la Sharapova, nei giorni precedenti Nadal, Tsonga, la Errani, la Zarenka. Cosa sta succedendo? Ma non riesco a metterle tutte insieme queste sconfitte, nel senso che sono sconfitte diverse, ognuna ha una sua spiegazione. Se vogliamo unirle, diciamo che questo gioco sta diventando un po' stupido, cioè i giocatori di tennis tendono a giocare tutti allo stesso modo, picchiano forte la palla e ovunque si trovano, in qualsiasi zona del campo, fanno la stessa cosa. Sull'erba, soprattutto i primi giorni, che è scivolosa e le situazioni sono diverse, rimbalzi strani, si può scivolare, chiaramente c'è una variante in più. Dopodiché Nadal stava male da prima, da tempo. È un miracolo che lui abbia vinto Parigi, perché il ginocchio non sta bene. Federer è svuotato dell'anima, non ha più e le motivazioni, alla schiena che non regge. E lo stesso la Sharapova. Altri sono rotti di per sé. Tsonga è sempre rotto, Cilic sta male da tempo. Quindi insomma, l'erba e non solo, ecco. Sì, Federer, che hai scritto tu questa mattina su Twitter, diventerà numero 5 del mondo, non accadeva da 10 anni, solo un anno fa era risalito, si era riarrampicato fino alla prima posizione del ranking. Ti chiedo se questa caduta a Wimbledon così precoce può segnare forse un momento simbolico della fine dell'era di Federer. Ma sembrerebbe proprio di sì, te lo dico con la morte nel cuore e neanche tanto convinto, perché l'abbiamo visto tante volte recuperare. Non dimentichiamo che proprio qui a Wimbledon noi abbiamo visto la caduta di Sampras con Bastl, che obiettivamente era anche più clamorosa. Bastl era più scarso di Stakowski, però poi a fine anno Sampras vinse US Open, quindi aspettiamo a darlo per finito, perché è sempre un campione, il talento è qualcosa di impareggiabile e quello che ha Federer è qualcosa che non vedremo più probabilmente. Sicuramente questo simbolo brutto della sconfitta al secondo turno rimarrà anche nella sua mente e in quella dei suoi avversari, purtroppo per lui. A proposito dei ritiri, abbiamo detto di Seppi che passa il turno avendo giocato soltanto un set contro gli Odra. Ieri 7 ritiri, è stata quasi una giornata da record, anche se in realtà non è un record, e oggi lo ricordi tu sulla Gazzetta dello Sport, ci sono stati altri tornei dello Slam in cui è andata decisamente peggio. C'è chi ha messo sotto accusa l'erba di Wimbledon. Io credo dipenda più da un insieme di fattori, compreso, e in parte lo dicevi, anche il fatto che il tennis è diventato davvero sempre di più una maratona, uno sport fisico, e non soltanto sulla terra o sul cemento. Ma sì, perché il movimento non è più quello che era una volta, il movimento tennistico, basta guardare qualsiasi immagine, c'è questa torsione violenta che è l'evoluzione del gioco di Bjorn Borg, che alla fine ti porta a una serie di micro traumi, di grandi sforzi di questo corpo che è spinto ogni giorno, ogni settimana, fra allenamenti e partite, spesso su superfici dure come cemento, e alla fine ti portano a dei traumi. E chiaramente moltiplica per un omone di 1,90 m e più, perché sono sempre più alti gli atleti, che picchia la palla a oltre 200 km l'ora, ovviamente devi moltiplicare tutti questi traumi e hai delle rotture, prima o poi hai delle rotture. In più ci metti i soldi, che qui vieni, prendi i tuoi bei soldi e chiaramente vieni per forza. Chi è che, quale giocatore, potendo entrare nel tabellone a Wimbledon, non gioca a Wimbledon? È chiaro che Wimbledon è un mito per tutti, quindi ci vai anche se non sei in condizioni, e poi il corpo ti chiede, ti presenta il conto. Sta diventando uno sport usurante. Grazie Vincenzo Martucci. Arrivederci. Grazie Vincenzo Martucci, Gazzetta dello Sport. A proposito di sport usuranti, notizia che è appena arrivata da Assen, MotoGP, oggi c'erano le prove libere, brutta caduta per Jorge Lorenzo che è in ospedale per accertamenti, non dovrebbe essere nulla di grave, ma segnalano le notizie che arrivano dall'Olanda, Lorenzo è a rischio per la gara che in Olanda da tradizione si disputa il sabato e non la domenica, quindi Jorge Lorenzo a rischio per il Gran Premio d'Olanda. 800 24 00 24, Cesare D'Asti, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Prego. Volevo intervenire a proposito della conferenza stampa di Miccoli, come Dica. Altri in precedenza. Di fatto Miccoli si è trasformato da un buon giocatore in un meraviglioso coccodrillo più che in una persona, perché avere il coraggio di dire ciò che ha detto in riparazione di quello che è nell'intercettazione è quantomeno veramente patetico, se non offensivo, ecco. Quindi, come ha detto un altro ascoltatore, il silenzio sarebbe stato d'oro come mai in nessun'altra occasione. Penso proprio che abbia definitivamente messo una pietra su, dal punto di vista umano e etico, è una persona impresentabile. Ecco, l'importante è che poi non si esageri anche con i commenti, con il tiro a Miccoli che ha sbagliato, ripeto, però troppo comodo poi sedersi lì e sparare tutti contro di lui. Dopodiché sottoscrivo quello che ha detto Cesare. Noi ci fermiamo qui, un ringrazio a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanida, autore di questa puntata, un saluto da Giovanni Capuano, l'appuntamento è per domani sempre alle 14. Carlo Genta torna.